prima cosa ovviamente volevamo ringraziare Maria Giulio per averci dato la possibilità di questo incontro. Noi siamo estremamente emozionate, non siamo professoresse, siamo cliniche, siamo abituate a rapportarci in un ambito di setting o individuale o di gruppo. E quindi generalmente non facciamo quasi mai o lezioni o incontri o in maniera del tutto eccezionale. Quasi mai. Quindi siamo un po' emozionate. E, dunque, abbiamo concordato insieme questo tema perché quello del punto della difficile ricerca sulla propria identità, di un rapporto difficile, a volte malato all'interno della coppia. Scusa, sì? Non si sente. Scusa, perché ti interrompo. È spento? Oh, adesso va meglio. Riprendo dicendo che avevamo scelto questo tema e concordato insieme perché è un tema che sempre più frequentemente ci viene posto dalle persone che richiedono un aiuto, una terapia, quindi questo dei problemi che nascono da dimensioni di violenza all'interno della coppia. Diciamo che probabilmente io affronterò queste dinamiche malate che ci sono all'interno di alcune coppie. Affronterò una delle dinamiche che si presenta più frequentemente, ce ne sono tante, però diciamo abbiamo scelto questa proprio per la frequenza e anche perché spesso anche le cronache ne parlano, quindi per capire che cosa succede in certe situazioni in cui poi esce fuori una perversione. E vedremo anche le conseguenze e in particolare alcune conseguenze che toccano il corpo della vittima, in cui si sviluppa una patologia che andrà a toccare anche il corpo della vittima. Di questo ce ne parlerà la dottoressa Del Pace e soprattutto la dottoressa Del Pace avrà il compito più difficile, quello di raccontarci che cos'è lo sviluppo e che cos'è la ricerca di una propria identità valida. Ci proverò. Ci proviamo. Allora, dunque, quello che ho pensato di fare per darvi un'idea di quello che può succedere, di come noi possiamo lavorare, partire da un caso clinico. Io ho scelto un caso clinico tratto dalla letteratura, proprio perché sapete che c'è un discorso di privacy, però vi assicuro che di casi come questi ce ne capitano tantissimi. E in particolare ho preso un caso perché era scritto, secondo me, senza tanta elaborazione, cioè proprio come una persona che chiede aiuto può raccontare la propria storia. L'ho preso da un libro dei serial killer dell'anima di Cinzia Mammoliti. Allora, è il caso di Cristina, e racconta Cristina, una donna di 43 anni, architetto. Dunque, con OBL in una galleria d'arte, la sua area da cucciolo smarrito e privo di punti di riferimento ne aveva stretto il cuore in una morsa. Ricordo che si guardava intorno tra quelle magnifiche opere quasi come fosse impaurito e quando si rivolse a me per chiedermi se sapesse a che ora chiudesse il parcheggio antistante mi sentì invadere da un'ondata di tenerezza. Aveva occhi di un azzurro mare languidi e profondi, i capelli biondi e ricci scomposti su un viso paffuto e privo di rughe, mi ricordava il putto cresciuto di uno dei quadri che ci circondavano. Quindi è evidente che la prima cosa che colpisce è quest'area indifesa. Gli risposi cortesemente e decisi di uscire con lui per accompagnarlo al lato, considerando che anche per me iniziava a farsi tardi. In realtà non avevo grandi impegni, mi ero separata da poco dal mio ennesimo compagno e stavo cercando di riabilitare i miei ritmi da donna single, cercando di autodisciplinarmi un po'. Vedremo che questa autodisciplina è una cosa che molto spesso si trova nelle vittime. Fu così che accettai di buon grado la sua inaspettata proposta di mangiare una pizza insieme e trascorso una serata piacevolissima, come non ne ricordavo da parecchio tempo. Ella era di una dolcezza e sensibilità disarmanti, affetto ascoltatore, comunicatore empatico e coinvolgente. Era molto diverso dagli uomini che avevo incontrato fino ad allora. Anche questa è una caratteristica importante da sottolineare, come si è colpito da un'immagine esterna che sembra essere in un modo e poi non avrà quella profondità. Fu così che iniziamo a frequentarci assiduamente sin da subito. Lui mi cercava infatti in continuazione, mi riempiva di gentilezze e premure che facevano aumentare il mio desiderio di stargli vicino. Ci vedevamo 3-4 volte la settimana e quando non riuscivamo a causa dei rispettivi impegni lavorativi, trascorrevamo ore intere al telefono a scriverci. In poche settimane mi aveva messa a corrente di tutta la sua vita. Vediamo che si sta stabilendo una relazione di fusione, di idealizzazione. In poche settimane sì, mi aveva messa a corrente di tutta la sua vita. Benché mio coetaneo non era ancora riuscito a portare a termine una relazione sentimentale, perché le donne incontrate prima, a sua detta, non erano in grado di comprenderlo. Comincia a farsi vedere, diciamo, questa dimensione di vittima. I suoi genitori, la madre in particolar modo, erano a stento presenti e sosteneva di avere tanto amore da dare poiché ne aveva ricevuto poco. Le donne vogliono un compagno che le maltratti, continuava a ripetermi, e quando ne incontrano uno generoso, premuroso e gentile, si annoiano subito e in breve lo tradiscono con chi le farà soffrire. Forse ha ragione lui, pensavo, in fondo anche il mio passato sentimentale era costellato di una serie di fallimenti collegati alla medesima tipologia di uomo individualista e anaffettivo. Anche questa è una cosa che chiediamo spesso, cioè il passaggio da un narcisista che è un narcisista manifesto, detto over, a un narcisista che invece è un narcisista cover, cioè poi vedremo quali sono le differenze. E quindi è un uomo individualista e affettivo che però ne riduceva puntualmente a un giardino. Ecco perché in quel momento riuscivo a apprezzare una persona così diversa, un uomo vero, pulito, puro. Ero felice di averlo incontrato, mi sembrava il giusto premio dopo tanti anni di dolore. Fare l'amore con lui era molto bello, mi riempiva di coccole e tenerezze infinite che mi facevano sentire accudita e protetta come non mai. Dopo un po' di tempo però, Elle cominciò a rinforzare in maniera fastidiosa le sue premure nei miei confronti, arrivando addirittura a lamentarsi del giorno della settimana che ero solita dedicare alle mie amiche di vecchia data. Ritenevo fosse una serata inutilmente sottratta alla possibilità di trascorrere ulteriore tempo insieme, e quando provavo a replicare con dolcezza che di tempo insieme se ne trascorrevamo già molto, mi guardavo con occhi da cane bastonato. Con la voce spezzata dal pianto, mi ricordavo quanto vuoto emotivo e solitudine avesse vissuto prima di incontrare me. Prima di conoscerlo, ero solita frequentare una palestra un paio di volte alla settimana e anche riguardo allo sport aveva da ridire, poiché, a suo parere, non avevo alcun bisogno di tenermi in forma. Anzi, iniziavo a temere che potesse trattarsi di un mio pretesto per evitarlo. Questi atteggiamenti soffocanti andarono aumentando a livello esponenziale, finché non raggiunsero il parossismo in occasione di una festa insieme a casa di alcuni amici comuni. Quindi vediamo che sta aumentando la fusione, la sta cercando di isolare, e arriviamo a questo momento in cui lei si rapporta con i suoi amici di prima. Là avevo ritrovato casualmente degli ex compagni di università e mi ero appartato un attimo con loro a revocare i tempi passati. Mi fa ancora male ripensare alla reazione di Elle quando mi vide ridere e scherzare con quei ragazzi. Accovacciato su una poltrona fissava il vuoto, bevendo compulsivamente drink a base di Campari, uno via l'altro, con tutti i muscoli del viso che li tremavano. Anche questo vedremo che molto spesso la tendenza a atteggiamenti compulsivi o a dipendenze è presente in questo tipo appunto, di persone con un carattere narcisistico. Ed è anche vero che c'è una dimensione di invidia, specialmente per le dimensioni valide dell'altro, quindi in questo caso la capacità della della donna, della ragazza, di fare rapporti, quindi di entrare in relazione con i suoi amici. Dunque, quindi c'è una protesta di quest'uomo che urlava di avermi riempita di amore e di attenzioni per nulla, di avermi dato tutto in cambio di niente. Avrei voluto sprofondare e contavo molto sul fatto che, dato il visibile stato di ebbrezza, i presenti sarebbero stati comprensivi, ma dentro di me qualcosa si era irreversibilmente spezzato. Capii che a Elle non sarebbe mai bastato quello che avevo da dargli, perché il suo vuoto era assolutamente incolmabile. C'è un amore sempre insufficiente. Ora, quello che ci ha colpito anche un pochino parlando di questi casi che arrivavano, anche dei fatti di cronaca, era non solo questa violenza, non era solamente diciamo una violenza fisica o una violenza che poteva finire sui giornali, ma molto spesso era una violenza psicologica o addirittura invisibile, in cui l'altro non esisteva. E appunto, andandoci a documentare, a cercare, abbiamo visto che anche nei centri di violenza in realtà è pieno di donne che, pur non avendo avuto violenze fisiche e a volte anche neanche proprio psicologiche manifeste come molestie diciamo atti vendicativi, si rivolgono proprio perché cominciano ad avere uno stato di ansia fortissimo e non sono più in grado di gestire la situazione. In particolare devo dire che mi ha colpito un libro che è stato scritto da una delle responsabili del centro antiviolenza di Firenze, e che proprio, diciamo, è stata Filippini, parla proprio di relazioni perverse dell'associazione Artemisia, e riesce in qualche modo a chiarire quelli che sono i passaggi all'interno di queste coppie, cioè quali sono le dinamiche che vengono messe in atto a seconda delle varie relazioni che si hanno in diversi tempi. Quindi anche questo volevo leggervelo, per poi parlare più chiaramente di quella che è la personalità del narcisista e quella che è la personalità della vittima. E la cosa che vi chiedo, se ci fossero delle domande, vedo qualcuno che prende appunti, è importante perché così magari dopo possiamo chiarire di più alcuni punti, perché mi piacerebbe proprio che fosse un incontro e che fosse possibile fare uno scambio su queste tematiche. Allora, adesso vi dico quello che è stato appunto il riassunto su queste relazioni perverse fatte da questa responsabile di questo centro. Il perverso, ci dice, ha molte carte da giocare, che si tratti del tipo grandioso, pieno di sé, oppure dell'insicuro e timido. All'inizio della storia è comunque piacevole, in certi casi più piacevole di qualunque altra storia. Tutti quanti parlano dell'inizio di una storia bellissima in cui l'altro appare molto sensibile, molto affettuoso. Il primo tipo, infatti, e qua parleremo di due diversi tipi di narcisista, cioè quello manifesto, quindi quello arrogante, quello che in qualche modo è pieno di sé, ma anche del narcisista cover, quello nascosto, che da una parte è convinto di essere molto importante, di essere superiore agli altri, però dall'altra parte si lamenta in continuazione di essere una vittima e di non avere le giuste attenzioni, quindi non è così manifesto. Dunque, dicevamo, il primo tipo, quello manifesto, è capace di associare la compagna alla sua grandiosità. Entrambi fanno parte di una coppia speciale. La partner brilla di luce riflessa, ma il narcisista grandioso di luce ne fa tanta. Se si tratta di un narcisista del secondo tipo, l'inizio è ancora più emozionante, perché per lui, che si considera, almeno apparentemente, inferiore, impresentabile, incapace di relazioni sociali, l'avere trovato una compagna, specialmente se lei è una donna di valore o almeno di successo, è come toccare il cielo con un dito. Lei lo rende invidiabile e con ciò lo fa felice. l'avere intrecciato un rapporto con lei ha il significato di un riconoscimento dei propri meriti, che fino a quel momento erano stati ingiustamente disprezzati. Egli idealizza all'inizio la compagna che rappresenta, o meglio, si mette al posto della parte più riuscita di se stesso. La interpreta e ne certifica l'esistenza. Nello stesso modo, nel fondo di sé, è sicuro della propria superiorità rispetto alla compagna, anche se all'inizio gli pare di credere che lei sia la migliore occasione che lui abbia mai incontrato. Quindi all'inizio possiamo vedere una idealizzazione reciproca, a cui seguirà, come abbiamo visto anche nel caso, una fusione ed un isolamento. Ed è chiaro che anche nella vittima non c'è la visione profonda dell'altro, e vedremo che anche questa è una forma di affettività, perché se uno è affettivo deve riuscire a vedere la realtà profonda di tutta la situazione. Allora, questo è difficile parlare così di una vittima, però se uno vuol fare poi un lavoro è importante queste cose vederle fino in fondo. Dunque, lui la mette su piedistallo, lei ne è felice. Pian piano però lei si accorge che lui ha rapporti non buoni, anzi spesso cattivi, con buona parte del resto del mondo. Tende a denigrare gli altri e a invidiarli, e in genere passa dall'idealizzazione alla svalutazione. Con la sua autentica capacità di svalutare gli altri, del cui disvalore è profondamente convinto, gli fa sentire a disagio, e questo in generale non gli viene perdonato. Finisce per distruggere i suoi rapporti, perciò è generalmente solo e viene penalizzato, per esempio, nel lavoro. Non è il successo che crede di meritare, e questo, come in un circolo vizioso, rinforza da un lato la sua idea cosciente di non valere, ma anche di essere sfortunato, e dall'altro l'idea inconscia di essere trattato molto al di sotto dei propri meriti. Cioè c'è un delirio in cui apparentemente lui si mette anche in crisi, però sotto c'è un delirio veramente di impotenza, di valere più degli altri. Lei è perplessa e tende a pensare che lui è davvero un po' sfortunato, oppure che certo ha sbagliato molte cose nella vita, ma può benissimo riprendersi e ripartire. Lei rappresenta un nuovo inizio, una nuova occasione. Questa è la fantasia che spesso, all'inizio, entrambi condividono. Quindi è evidente che da parte di entrambi non c'è una visione reale della situazione. Spesso, anche in questo periodo, poi vediamo dopo, che diventano più evidenti, però cominciano dei sintomi di ansia e d'angoscia. Però si sente, ma non si riesce a vedere, a capire la situazione, quindi magari l'attribuzione a questo sintomo d'angoscia può essere errata. Per esempio, non si pensa che è nel rapporto che c'è qualcosa che non funziona, ma qualcosa di esterno. Magari uno non è abbastanza bravo a aiutarlo a cercare lavoro, l'altro è triste perché l'hanno trattato male sul lavoro. Non si riesce a riconoscere quale può essere il senso di quest'ansia che si trova. E dunque, pian piano però, la realtà quotidiana mette la coppia alla prova. Non è possibile, come lui in fondo vorrebbe, sottrarsi alla necessità delle relazioni con gli altri, ai problemi di lavoro e eventualmente al rapporto coi figli. È possibile che la donna tenti di proporre sulle cose un punto di vista diverso da quello di lui e ne susciti così l'irritazione e soprattutto il sentimento di essere di nuovo incompreso. Lei allora diventa, se non una nemica, una come gli altri, come qualunque altro di quel mondo fuori di lui, che lui non ama e da cui non si sente amato. Di lei però è meno facile liberarsi, perché è diventata depositaria delle parti idealizzate di lui stesso. Allora, che fare? Non gli resta altro che agire sui meccanismi di idealizzazione e svalutazione, trasformare, cioè svalutazione, la passata idealizzazione, e quindi maltrattare la donna, farla sentire inadeguata, incapace, colpevole. E qui vedremo che comincia a uscire la realtà del perverso, cioè trasforma in opposto una situazione ed in qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Cioè l'aspetto perverso all'inizio non è assolutamente presente, si può solo intuire che c'è qualcosa che non va in questa persona, ma sulla base di un sentire, non di una realtà manifesta. Quindi è in questo momento che il tratto perverso entra pienamente in azione. Il narcisista perverso è infatti uno specialista nel denegare le proprie mancanze trasferendole nella compagna. È lei quindi che diventa dei due la persona senza valore, quella che non capisce e che può, anzi deve, essere trattata come merita. Lo stile perverso esce dall'ombra e imprime il suo marchio sulla relazione, a inizio il pressing sulla vittima. Lei a questo punto comincia a sentirsi disorientata, non capisce chi è la persona che è vicino. È il tenero amante, il compagno premuroso, l'uomo che stima, o è invece un uomo che la usa, magari interessato e cattivo? No, non può essere, si sbaglia, ha capito male, forse ha capito male perché non lo capisce. Parliamone, pensa, ma tutte le volte che ci prova non ne viene fuori niente. Scivola su una superficie viscida e torna sempre al punto a capo, sempre con la sensazione di non capire e magari di essere lei quella sbagliata come lui, con allusione sempre più chiara, come lui con allusioni sempre più chiare tenta di farle credere. È importante notare, e poi vedremo, che il perverso è un grosso manipolatore, cioè lui vuole tenere ferma quella sua bolla di onnipotenza. Quindi potremmo avere che la svalutazione all'interno della coppia, ma fuori assolutamente no. Magari può anche accadere che lui fuori parli anche molto bene di questa donna, non è detto che la svaluti fuori. Però il pressing spesso è molto nascosto, è interno proprio alla coppia. Ora poi, noi stiamo parlando di un rapporto in cui, tra virgolette, il perverso, il narcisista è l'uomo e la vittima è una donna. Allora, questo accade molto spesso e vedremo anche che è legato a fattori culturali, però può avvenire invece anche il contrario, cioè questo deve essere chiaro, insomma. E quindi, adesso se ci sono domande potete interrompere in qualsiasi momento, se no io continuerei un pochino vedendo che cosa succede dopo l'uscita del tratto perverso. Davanti? Ok. Allora, la prima cosa che possiamo vedere, tra l'altro a volte arrivare in questa situazione a chiedere aiuto, è una forma di rifiuto, cioè crolla il mondo di queste donne, cioè non riescono a capire più nulla e la prima cosa che percepiscono sono sicuramente degli stati legate all'ansia, alla respirazione. Crolla il mondo perché? Crolla il loro mondo di vedere se stesse, crolla il modo di vedere l'altro e crolla proprio la relazione. E loro avevano non solo creduto tantissimo, ma fatto di tutto per tenerla insieme, perché le prime difficoltà che escono, loro ancora di più intensificano, si prodigano perché la relazione di coppia riesca. Quindi per loro è un cambiamento totale del mondo in cui stanno vivendo. Quindi vediamo proprio come manifestazioni fisiche e psichiche, noi parliamo addirittura di uno scompenso, abbiamo ansia, abbiamo attacchi di panico, abbiamo addirittura dissociazione, cioè parliamo con loro, ci è capitato un caso di recente, che praticamente vediamo che passano da un discorso all'altro senza riuscire a tenere il filo del discorso, perché per loro è impossibile ricostruire una realtà che è diversa da quella che avevano pensato e la realtà che c'era prima non corrisponde più. Ed è impressionante vedere, cioè è veramente toccante vedere queste cose. E hanno a volte delle crisi di nervi, cioè uno pensa che magari è il narcisista perverso che è quello che urla, sbraita, spesso noi vediamo il contrario, cioè fuori il narcisista è tutto tranquillo, disponibile, calmo, di solito sono queste vittime che pur di cercare di smuovere qualcosa hanno veramente non solo delle crisi isteriche, che noi definiamo isteriche così, ma loro stesso poi si sentono in colpa per come reagiscono. Quindi è veramente, la realtà non è come appare, ma è qualcosa di molto più profondo. Abbiamo degli atti di lesionismo di cui ci parlerà dopo Letizia, e anche fino anche dei tentativi di suicidio. E gli disturbi psicosomatici che vediamo più frequentemente sono malattie cardiovascolari, malattie della pelle, ulcere. Cioè molto, questo ve lo racconto perché passando sempre studio, mi sarà capitato di vederlo, c'è una scritta sul muro che parla proprio di una dermatite e mi ha sempre fatto riflettere, che dice: la dermatite, amore, era una finestra aperta sul mondo. Cioè, ed è bellissimo, non so se qualcuno lo potrà far vedere dalla strada a casa mia a studio. È proprio questo, cioè anche i sintomi somatici ci fanno capire che sta cambiando il mondo, sta cambiando il modo di vedere. Cosa succede a questo punto? C'è una richiesta d'aiuto. Non è però, non sono però tutte uguali le richieste d'aiuto. In alcuni casi c'è una richiesta semplicemente, si va spesso dal medico di base a chiedere psicofarmaci per calmare l'ansia. Cioè, o la depressione che è presente, cioè come qualcosa che dovesse bloccare questo pensiero di un mondo nuovo e completamente diverso che si deve affrontare. Quindi noi chiamiamo un po' una scelta di sottomissione, come spesso purtroppo vediamo e che era frequentissima negli anni passati. E quindi c'è un utilizzo di psicofarmaci e col tempo inevitabilmente una cronicizzazione dei disturbi psichiatrici. Quindi abbiamo anche molto, si arriva a delle dipendenze di vario tipo e molto anche dipendenze alimentari di cui ci parlerà la dottoressa Del Pace. Si può arrivare fino alla psicosi e anche al suicidio. Si può diventare nel tempo come narcisista, cioè condividere in qualche modo questa dimensione falsa. Si diventa schizzoide come un narcisista. Cosa succede se invece c'è un altro caso interessante, viene portato alla letteratura, però sto cercando di approfondirlo ancora, non sono riuscita a provare, devo avere un po' più di tempo, i testi adatti. Qualcuno parla di cronicizzazione, di disturbi psicosomatici, fino forse a sviluppo di tumori, specialmente al seno e all'utero. E l'alternativa qual è? Quella di ribellarsi, potremmo definire. Ribellarsi vuol dire lottare per una separazione. Non è assolutamente semplice, perché in qualche modo è sia rifiutare il narcisista perverso, ma anche rifiutare quel mondo in cui si è vissuti fino allora. È in qualche modo essere anche in grado di rifiutare una propria vecchia identità che ci ha portato a fare quelle riduzioni. Quali sono nella vittima le conseguenze del legame perverso? Anche durante tutta la separazione, cioè non si esce di solito immune da un legame del genere, specialmente se è durato diversi anni. Le conseguenze possono essere dei disturbi lievi come ansia generalizzata, l'insonnia, l'affaticamento cronico, la depressione, dei disturbi psicosomatici a cui abbiamo accennato prima, delle dipendenze, di cui ci parla la dottoressa Del Pace, il disturbo post-traumatico da stress, che sembra incredibile perché di solito è un disturbo che si sviluppa in situazioni di guerra oppure di catastrofe naturali, però anche in situazioni in cui viene qualcosa di molto grave a noi o a qualcuno che è vicino a noi, quindi anche nel caso per esempio di morte di un figlio, ma anche in casi di questo genere, cioè di violenze psicologiche. In continuazione, in questo disturbo si pensa all'evento che è successo, in continuazione si hanno incubi, in continuazione si pensa che questo evento così drammatico possa ritornare nel futuro, continuamente si pensa che questa persona si possa vendicare. E ora però tutta la letteratura parla anche di aspetti positivi. Quali sono gli aspetti positivi? È che uno ha la possibilità di cambiare non solo la propria vita, ma di cambiarla profondamente. E questo è il lavoro che di solito viene fatto in psicoterapia, cioè capire fino in fondo cosa è successo, perché non si è sentito qualcosa ma non si è visto, perché si è rimasto in questa situazione. Per cui Dietro Guaglian dice una cosa molto interessante, dice che praticamente un perverso, con un perverso non lo si ha mai vinta, però si può imparare qualcosa su noi stessi. E ora, io direi che siete d'accordo, vedremo un attimo sia quelle che sono le caratteristiche del narcisista, di personalità e le dinamiche in cui entra, però anche poi, che forse anche la parte più interessante, quella che viene trattata di meno, quali sono le caratteristiche delle vittime. Ovviamente poi vedremo che in terapia intanto la prima cosa importante è riconoscere la vittima e il suo stato, cioè che ha subito delle cose, se sono reali le cose che lei ha subito, perché molto spesso il narcisista fa finta che vada tutto bene, che è solo lei che o dice delle cose inesatte oppure è un'isterica, per cui la prima cosa è riconoscere il dolore, questo in ogni caso, e riconoscere la loro sofferenza. Poi però bisogna lavorare su che cosa ha portato una persona a entrare e a rimanere in questo rapporto. Intanto parlerei delle caratteristiche del narcisista. Le caratteristiche del narcisista è proprio questo di avere un'idea grandiosa di sé e un bisogno di grande ammirazione. Abbiamo fatto la distinzione prima tra il narcisista manifesto e il narcisista invece chiamato Bober, che apparentemente è ipersensibile, però qual è la differenza? È che uno questa grandiosità la manifesta, l'altro fa più la vittima, dice che in qualche modo lui potrebbe fare di più o è di più e non è abbastanza considerato, e sono anche quelli più pericolosi perché apparentemente non si vedono. È ipersensibile a qualsiasi critica. Entrambi comunque hanno scarsa empatia, cioè l'altro non lo sentono, lo usano ma non lo sentono. Hanno una profonda convinzione di essere invidiati, mentre in realtà sono loro che invidiano le capacità più umane dell'altro. Hanno una noia cronica, proprio perché, considerando gli altri come oggetti, non hanno un interesse profondo, solo l'interesse profondo fa sì che l'altro abbia interesse e non noia. Possiamo dire che lui vive in una specie di bolla in cui non c'è nessun rapporto con la realtà, con la vera. Quindi vive in una grossa bolla. Cosa succede nella prima parte della relazione tra appunto un narcisista, e chiamiamo quello che è la sua vittima, poi forse daremo un nome diverso, è una forma di fusione, cioè in qualche modo la vittima viene portata in questa bolla, però la vittima non ci crede in questa situazione, cioè crede veramente che tutto vada bene, che quello è il rapporto ideale. C'è una sorta di vampirizzazione, cioè vengono prese le qualità belle della vittima e fatte sue. Spesso c'è un sono io. Tutte le realizzazioni dell'altro è come se lui le avesse permesse, come se l'altro non fosse capace di fare delle realizzazioni per conto suo. È una grossissima manipolazione. Nella seconda fase, quella più drammatica, avviene quando, non tanto come dice la letteratura, che la vittima si separa, se ne va, perché quello è un processo successivo, non è detto neanche che lo faccia la vittima, ma proprio quando la vittima rifiuta. Cioè la vittima a volte non se ne va neanche perché è talmente impegnata a cambiare, c'ha talmente tanti di quei sensi di colpa che per lei è quasi impossibile andarsene. La vera crisi arriva quando la vittima lo vede e comincia a dire no ad alcuni comportamenti, non gli possono corrispondere. E quindi a questo punto nel narcisista esce questa svalutazione della vittima, cioè quello che fa il narcisista è protegge questa bolla, cioè la rinforza, butta fuori dalla bolla la compagna. Però lui rinforza questa cosa dicendo che va tutto bene, lei che non vale niente e che quindi deve uscire fuori dal suo mondo. E qui esce fuori il tratto perverso, quindi in qualche modo vediamo questo, lo chiamano cronologismo, a livello, diciamo, più scientifico, noi parliamo molto spesso di pseudologia fantastica, cioè abbiamo queste persone che vivono in una sorta di delirio, cioè in delle convinzioni in cui loro stessi credono, che però a volte sono costellate anche da bugie razionali per far tornare tutto. E c'è una salutazione della compagna che ovviamente è tirata fuori dal loro mondo, in cui deve continuare ad essere un mondo di onnipotenza. Spesso passano immediatamente a nuove relazioni, cioè va tutto bene, è solo sbagliata la compagna, l'importante è cominciare un'altra storia, cioè questo mondo in cui tutto è perfetto. E però a volte, specialmente forse nei casi in cui c'è un po' più di sensibilità nel narcisista, vediamo l'aspetto positivo, passano a delle dipendenze o intensificano le dipendenze che hanno già. Perché dico, vedete, una dipendenza come un aspetto positivo? Però forse nella dipendenza, anzi sempre nella dipendenza, c'è un cercare di sopprimere quella che è l'ansia e la depressione. Quindi intensificano le loro dipendenze. A volte sono dipendenze sessuali, a volte sono dipendenze da internet, ce ne sono da alcol molto spesso, ce ne sono diverse. A loro serve in qualche modo per non sentire l'ansia e continuare a pensare che tutto vada bene. E poi magari successivamente vediamo se possiamo accennare anche qui al trattamento terapeutico del disturbo narcisistico, che è possibile, cioè è una cosa molto lunga, non può essere fatto dalla partner. Ecco, un lavoro che noi dobbiamo fare con le partner, loro devono uscire da questa dimensione, perché è un lavoro per noi terapeuti difficilissimo e durissimo, in cui toccare qualcosa una volta ogni tanto è già tantissimo. Per cui questo non lo dovremmo neanche dire, ma invece è possibile la cura, è molto lunga, è molto difficile, non è possibile in tutti i casi, perché queste le differenze che fanno nella letteratura è se uno, e lo possiamo vedere vedendo alcuni politici, che se uno ha molto successo nel lavoro e tutto apparentemente fuori va bene, loro continuano a vivere nella loro bolla e tutto quello che non funziona viene messo immediatamente fuori e sostituito con un'altra persona, un'altra relazione, un altro lavoro. Quindi in questo caso non è assolutamente possibile. Negli altri casi si può lavorare, quando si può toccare qualcosa con molta lentezza su questa ansia, su questa depressione, su questa svalutazione. Per arrivare a un narcisismo sia un annullamento totale della propria identità durante l'infanzia, quindi sono delle cose tristissime, dolorosissime. Anche questo non lo dovrei dire, perché in qualche modo le vittime spesso si attaccano a questa cosa, perché è vero che l'infanzia, per giustificarlo, perché l'infanzia di queste persone, di questi uomini, sono costellate da eventi terrificanti, però lo stesso è difficilissimo lavorarci. E un conto un setting, un conto viverci insieme. E accennato qualcosa sul trattamento terapeutico del disturbo narcisistico, io passerei forse anche alla parte che dobbiamo dunque, alle caratteristiche della vittima, direi semplicemente questa. Qual è il pensiero della vittima? Perché si diventa vittime? Molti studi non riconoscono neanche la specificità della vittima. Molti studi hanno anche, a volte, specialmente quelli più divulgativi che potete trovare, quasi a non considerare la vittima, come se uno potesse essere vittima e basta. Questo, quando si è all'interno di una relazione, invece ne vediamo che sono presenti degli aspetti patologici. In molti casi è presente una vera e propria depressione, in altri casi possiamo trovare anche degli aspetti narcisistici, però a quel punto non si crea tanto questa dinamica, ma altre dinamiche, cioè o c'è la follia 2, oppure dinamiche molto più pesanti. Potremmo vedere, per esempio, oggi non abbiamo tempo, però questa dipendenza affettiva, forse l'avete visto il film di Adele H? No, per esempio quello è un aspetto dove si sviluppa, sono due narcisisti ed è terrificante, fino a quando l'altro arriva veramente a un delirio ed a una psicosi. Non è questo di cui stiamo parlando ora. Quello di cui stiamo parlando ora non è forse neanche una vera e propria depressione manifesta nella vittima, perché spesso queste vittime sono estremamente delle donne valide, che hanno un bel lavoro, delle donne di bella presenza, per cui apparentemente uno direbbe: dov'è la depressione? Molti autori invece hanno cominciato a parlare, ma da diverso tempo, e adesso si sta riprendendo il discorso a partire da Tellenbach, parlavano di carattere predepressivo. E cos'è il carattere predepressivo? Sono quelle persone che apparentemente sono estremamente, non apparentemente, in realtà sono estremamente coscienziose, si preoccupano di tutto, sono propense a colpevolizzarsi, sono persone che evitano il conflitto, però sono anche persone che hanno un grande impegno nel lavoro, spesso sono oppresse dal lavoro al limite del possibile, hanno un grande impegno nelle relazioni e hanno anche difficoltà a chiedere aiuto. Quindi sono persone che socialmente spesso sono estremamente valide e hanno delle grossissime capacità, cioè nel senso che sono persone che sentono. Ora però vedremo che hanno difficoltà a vedere profondamente le situazioni, perché nonostante queste grosse capacità che loro hanno, spesso nelle situazioni di difficoltà diventano estremamente rigide, quindi diventa tutto bianco e tutto nero, diventano onnipotenti, in ogni caso devono difendere, devono ancora di più impegnarsi in quello che fanno. Cioè potremmo dire che anche loro vivono in una piccola bolla molto semplificata, in cui tutto è bianco e tutto è nero. Quindi quando entrano, specialmente quando entrano in crisi, cioè presenta una rigidità in cui non sanno perdere, non sanno uscire dal loro schema. Infatti vediamo che quando queste vittime escono dallo schema c'è un grosso shock, perché per loro non è facile pensare quello che dicevo prima, cioè continuano a pensare che se loro faranno di più, se loro si dedicheranno di più alla situazione, se lo aiuteranno di più, le cose cambieranno. Riuscire ad avere una visione più ampia in cui certe cose non si possono cambiare, perché un narcisista ha un pensiero completamente diverso da quello che noi pensiamo, un pensiero, una sensibilità, un'affettività completamente diversa da quella che noi sentiamo come affettività. Cioè veramente loro non riescono a pensare agli altri, sono troppo concentrati su di sé, quindi è difficilissimo entrare in questo tipo di pensiero, non si possono attribuire i nostri pensieri all'altro ed è difficilissimo questo passaggio da fare. E quindi diciamo sono persone che evitano i conflitti e sono onnipotenti, vivono in una realtà molto semplificata. Per farsi vivono in una loro realtà onnipotente. Loro non è tanto onnipotente di grandiosità, loro non hanno questa grandiosità, però è tutto bianco e nero, è tutto molto semplice, deve rientrare tutto in questa semplicità. Se voi ci pensate, questa è una riflessione interessante da fare, quante queste donne rappresentano quello che la società vuole dalle donne? E quanto forse anche il narcisista un pochino rappresenta quello che molto spesso la società ha chiesto agli uomini. Quindi in fondo è come se si perdesse la propria identità, si diventasse un po' delle marionette per entrambi. Ognuno ripete un ruolo che non è la vera propria identità, la vera propria ricerca. Cade in un meccanismo di semplificazione, non c'è una ricerca di quello che uno sente. Una stereotipia, sì. E che cosa succede nelle diverse fasi della relazione con il narcisista? Nella prima fase, in qualche modo, il narcisista riesce a inglobare questa bolla, queste credenze di queste donne nella sua grandiosità. Quindi sembra una coppia dove tutto va bene, tutto perfetto. Successivamente, quando la donna si accorge che i valori del narcisista non sono assolutamente i suoi, c'è qualcosa che non torna, i debiti non vengono pagati, le persone vengono trattate male, c'è qualcosa che non torna, e prova a dire queste cose non vanno, il narcisista non lo può accettare. Quindi da una parte c'è il narcisista che butta fuori in qualche modo questa donna dalla sua vita e rinforza tutti quelli che sono i bordi della sua bolla, mentre spesso per la vittima, dopo aver cercato in tutti i modi di cambiare la situazione, perché l'impotenza della vittima è anche forte, riportare tutto bianco e nero, ci sarà l'esplosione, per fortuna la richiesta d'aiuto, con tutti questi sintomi che abbiamo visto. Nell'ultima parte, brevemente, vi accenno qualcosa di quella che può essere diciamo un percorso terapeutico che può essere fatto con le vittime. Allora, la prima cosa che dicevo è che nella prima fase sono loro che si devono rendere conto proprio che non corrisponde la loro identità, l'altro e il mondo che stanno vivendo alla realtà. Quindi la prima cosa deve essere una richiesta d'aiuto. Quindi sapere che l'altro può rappresentare un pericolo per se stesso e per loro. Devono diventare consapevoli che non c'è nessuna possibilità di dialogo, proprio perché il pensiero è completamente diverso, è un continuo scontro, ma non c'è lo stesso tipo di pensiero, non c'è percepire l'identità dell'altro. E poi piano piano dovranno togliersi dal ruolo della vittima. È vero che sono vittime, è vero che vanno difese, però è anche vero che loro si devono prendere la responsabilità del diventare ancora più affettive. Non basta sentire e percepire qualcosa, bisogna vedere profondamente la realtà e anche vedere che ci sono dei pensieri completamente diversi dal proprio. E soprattutto capire che tutto questo non può essere fatto da soli, cioè ci vuole l'intervento spesso per le questioni materiali di un avvocato, spesso per poter comprendere più in fondo i propri vissuti, anzi sempre di uno psicoterapeuta. Il percorso terapeutico fa sì che uno ritrovi la vera propria identità, la vera propria nascita, e arrivare a capire che si può amare l'altro solamente se si ha un'identità completa e valida, in cui non è sufficiente solamente sentire, ma in qualche modo vedere profondamente la realtà degli altri. Direi che io ho pensato di dirvi intanto queste cose, poi magari altre cose potrebbero uscire attraverso domande. C'è qualche domanda adesso? O vogliamo magari farla alla fine della relazione? Che dici? Io penso... Può andare bene così, posso lasciare la Grazie. Intanto la collega si aspetta che dica chissà cosa, insomma che ti spieghi. Insomma, spero di riuscire a dirvi bene come si realizza innanzitutto lo sviluppo psicofisico e quindi come si può arrivare da queste dinamiche di rapporto che possiamo definire sadomasochistiche ad attacchi al corpo, come si può manifestare questo malessere vissuto nel rapporto in un attacco al proprio corpo. Quindi parlerò delle condotte che servono per alleviare il dolore psichico e che più comunemente nella nostra società sono rappresentate dai disturbi del comportamento alimentare che sono sempre più in aumento tra le adolescenti e gli atti autolesionistici. Allora, innanzitutto partiamo da un assunto. Quanto è fondamentale conservare le caratteristiche che ci contraddistinguono come esseri umani, che sono la sensibilità di cui ci parlava Francesca, ma anche la fantasia, la vitalità, la capacità appunto di vedere l'altro nella sua profondità. Perché se queste caratteristiche vengono perse, allora si realizzano rapporti violenti. Quindi si sta male nei rapporti perché non ci viene riconosciuta la propria sensibilità. Partiamo da questo punto. Quando lei ci parlava del rapporto tra il narcisista e la vittima, spesso depressa, avviene proprio questo: il narcisista non sente l'altro, non lo vede, ha solo bisogno di un rapporto, ma non ne vede la realtà più profonda. E la donna depressa non riconosce la propria sensibilità, non si sente riconosciuta nella propria sensibilità e lei stessa non sa difenderla. Allora, intanto, quindi noi proponiamo, per comprendere queste dinamiche, un'idea di amore che è diversa da quella comunemente pensata e che si può tradurre nel concetto ti amo così come sei. Noi proponiamo un'idea d'amore molto diversa, nuova, in cui invece possiamo dire ti amo perché sei sempre diverso, perché mi sorprendi sempre, perché niente è mai più come prima e perché mi costringi ad essere una persona diversa, migliore, più affettiva, più sensibile. Quindi amare è pretendere che l'altro realizzi se stesso appieno in tutte le sue possibilità umane. E questa pretesa rende il rapporto decisamente più vitale. Quindi l'appiattimento affettivo che poi porta a queste dinamiche sadomasochistiche deriva proprio dalla negazione di tutto questo, dal fatto che non si pretende che l'altro sia al massimo delle proprie possibilità. Quindi amare è interesse profondo e questo interesse attinge al mondo affettivo, al mondo interiore degli affetti. Allora, ho parlato di nascita, quindi tutto comincia da una prima storia d'amore, la prima assoluta della nostra vita, quella con la madre. Tutto comincia però ancora prima del rapporto con la madre, dal venire al mondo. La nostra nascita è caratterizzata proprio da una fusione tra mente e corpo, perché è dal corpo che origina il pensiero. Ma non è un pensiero come ce l'abbiamo noi, no? Adulti, un pensiero verbale, un pensiero espresso con le parole, con il linguaggio articolato. Non è un pensiero cosciente, è un pensiero non cosciente. È un pensiero invece che si caratterizza per la capacità di fare le immagini. È un pensiero per immagini, si potrebbe dire. Facendo tutti i passaggi, non facili da dirvi, ci proverò, vi dico che la nascita rappresenta la prima separazione fondamentale della vita e allo stesso tempo, appunto, la nascita, la creazione del pensiero, la nascita della nostra identità personale. Quindi questo venire al mondo è caratterizzato da un qualcosa che ci contraddistingue come esseri umani, che è una caratteristica della nostra biologia, una capacità di reagire agli stimoli esterni. Ma agli stimoli esterni che sono sia la natura non umana che quella umana. Quindi la nostra caratteristica è in primis, che deriva proprio dal nostro corpo, dalla nostra biologia, la capacità di reagire. Quando veniamo al mondo ci confrontiamo con una realtà chiaramente sconosciuta, che avvertiamo come aggressiva, perché tutti gli stimoli sono completamente nuovi. Tra questi quello della luce è completamente nuovo ed è energia. Energia che ha la capacità di andare a stimolare direttamente la sostanza cerebrale. Quindi i raggi luminosi direttamente attivano la sostanza cerebrale attraverso le cellule della retina, che sono cellule nervose, immediatamente reattive a questo stimolo luminoso. E queste cellule afferiscono direttamente alla sostanza cerebrale tutta, dalla corteccia occipitale, poi c'è tutta, e c'è tutto riflesso sul resto del sistema nervoso, e quindi c'è l'attivazione di questa sostanza cerebrale che si manifesta come un movimento del pensiero, si chiama pulsione fantasia, che tende a difendersi, a proteggersi da questa realtà esterna non umana, con una fantasia di sparizione, cioè Sì, è un atto mentale di difesa da questa realtà non umana per orientarsi immediatamente alla ricerca di un rapporto interumano che conforti, consoli, ci scaldi e ci dia la conferma che l'essere venuti al mondo è una cosa bella. Quindi partiamo dal concetto che c'è immediatamente alla nascita la realizzazione di un'identità personale, però poi questa identità deve essere messa in gioco nel rapporto interumano. Anche perché il neonato da solo non può sopravvivere, quindi ha bisogno comunque, scusate, per la sopravvivenza fisica di qualcuno che si occupi di lui. Però, appunto, in quanto esseri umani, non cerchiamo l'accudimento materiale e basta, cerchiamo veramente l'amore. Abbiamo l'esigenza di sentirci corrispondere questa nostra sensibilità nel rapporto con l'altro. Sensibilità che non è sensibilità dei cinque sensi corporei, è una sensibilità psichica, quella che ci fa sentire l'altro senza averlo mai prima conosciuto, ci fa sapere dell'altro immediatamente, secondo una modalità proprio spontanea di rapporto. Chiaramente quindi capite quanto il neonato investi in questo rapporto interumano, si affida incondizionatamente alle braccia di un suo simile, che nella maggior parte delle case è la madre. È la madre che ha questa responsabilità enorme di rispondere a queste aspettative. E quindi ecco quanto è fondamentale che la donna conservi la sua vitalità, le sue caratteristiche, appunto, che appartengono, che caratterizzano la nostra nascita, per poter amare il bambino, per poterlo riconoscerlo, per poterlo riconoscere nella sua realtà più profonda, in questa fragile sensibilità che deve essere appunto rinforzata mediante le conferme che il bambino riceve nel rapporto. Questo è un discorso molto difficile perché ci porterà veramente a capire perché poi si sposta tutto sul corpo una delusione nel rapporto interumano in questo primo anno di vita. Una madre affettiva, una madre che sente, che ha conservato la sensibilità e quindi riconosce al proprio bambino la sua umanità, sarà capace di rispondere alle esigenze e quindi lo incoraggerà nello sviluppo di questa immagine interna, immagine di sé, in modo che sia valida e che arrivi poi al momento dello svezzamento, che è la seconda grande separazione nello sviluppo psichico del bambino, in modo tale che questo bambino possa affrontare il mondo e altri rapporti, nuovi rapporti, con la certezza dell'essere, con la certezza che il rapporto vissuto con la madre non lo perderà, perché avrà fatto un'immagine di lei dentro di sé, avrà conservato quell'affettività, avrà memoria e fantasia di un rapporto vissuto, avrà realizzato la memoria di quel rapporto come fantasia, come immagine che conserverà dentro di sé e che è la base per partire, per crescere, per affrontare sempre nuove dinamiche di rapporto, fino ad arrivare a quell'altra tappa fondamentale della vita, che è la pubertà, altro momento di cambiamento enorme, in cui addirittura ci sono cambiamenti fisici oltre che psichici, anzi sono quelli fisici che esplodono e che la mente deve rincorrere per ricreare questa fusione originaria. I problemi arrivano quando questa prima storia d'amore non finisce bene, quando invece di rinforzare le nostre speranze e certezze interiori ce le va a ledere, ce le va a minare. Perché mi viene da pensare, in base a quello che ha detto Francesca, quando questi narcisisti, quando magari una madre è un narcisista che ha un bambino, cosa succede? Se quelle caratteristiche di cui ci diceva lei prima, che si possono, diciamo, riassumere in una dimensione di schizofrenia, le ritroviamo in una madre, cosa succede nel bambino? La disperazione, perché una madre narcisista, quindi diciamo più probabilmente schizoide, che non sente, che è magari bravissima nell'accudimento materiale, ma non sente qual è la richiesta profonda di rapporto, di conforto da parte del bambino. Il bambino richiede alla madre tutta se stessa, corpo e mente insieme, ricerca quella stessa fusione con la quale lui è nato. Se non la ritrova nel rapporto, lui stesso andrà incontro ad una dissociazione tra queste due realtà, tra il corpo e la mente. Ora, quindi, una madre che non sente tenderà a vedere solo la realtà fisica del bambino. Nei casi peggiori, pensa al bambino proprio come un animale, va bene? Cioè come se avesse solo bisogno di accudimento materiale, appunto. E l'adattamento diventa un adattamento animale, in effetti. Cioè c'è solo l'atto materiale, fisico, dato col seno, col biberon, come volete. Però non viene veicolato l'affetto nell'adattamento. L'adattamento dovrebbe essere nutrimento fisico e psichico insieme. Ma se è solo fisico, cosa succede nel bambino? Che verrà deluso profondamente nelle sue aspettative di affetto e perderà sempre più fiducia nell'essere amato, ma anche nella propria capacità di amare l'altro. Perderà sempre più fiducia in questo mondo interno degli affetti, della fantasia, e tenderà a perderli. In una dinamica che può partire da un processo di identificazione con la madre fino all'idealizzazione. Mi spiego meglio. Quando il primo atto che comunemente pensiamo, no, di reazione ad una delusione è la rabbia. Quindi la prima cosa che può succedere a un bambino è che si arrabbi di fronte ad una madre che non sa rispondere alle sue richieste di rapporto. Dalla rabbia, chiaramente alla rabbia noi associamo un'immagine, quella del morso. Pensiamo che questo nutrimento, abbiamo detto, è fisico e psichico insieme. Pensiamo proprio al rapporto col seno. Questo seno, invece che baciato e succhiato, viene morso. Questo è l'inizio, psichicamente intendo, questo è l'inizio di un processo identificativo con la madre, in cui il seno si guasta, il contenuto del seno si guasta, il latte si guasta, diventa veleno. Perché questo tipo di rapporto, cioè l'identificazione, si realizza sempre verso la persona che ha deluso. Okay? Quindi ci si identifica con la persona che è profondamente delusa. In questo processo si realizza rabbia e invidia, di cui ci parlava prima lei. Cioè ci si acceca progressivamente rispetto alla realtà interna dell'altro. Si perde progressivamente la sensibilità e la capacità di vedere, fino a casi più estremi in cui invece si va oltre l'identificazione, c'è un rapporto, si dice allo specchio, un rapporto simbiotico di imitazione dell'altro, perché c'è un vuoto totale di contenuto interno. Quindi l'unica cosa da fare è fare lo specchio all'altro, si è persa completamente un'immagine interiore, per cui quello che resta è un rapporto piatto, una figura piatta, senza contenuto. Allora, vi ho detto che se c'è soltanto la risposta materiale alle esigenze del bambino, questo bambino tenderà a cercare sempre dei sostituti di questo seno materno perduto, soprattutto dallo svezzamento in poi. Abbiamo detto che lo svezzamento è, diciamo, un periodo piuttosto ampio, secondo me, che non è soltanto il momento in cui si passa dal nutrimento con latte alle prime pappe o al camminare, ma è proprio un periodo più ampio che riguarda anche il cominciare ad affrontare da soli i rapporti con gli altri, quindi anche andare all'asilo nido oppure l'inserimento in una scuola materna sono tappe di svezzamento, se vogliamo dire così, no? Cioè sono tappe progressive di acquisizione di nuove abilità che riguardano l'autonomia del bambino, ma che possono essere vissute con un'ansia fortissima, ansia di separazione, la chiamiamo, se questa immagine interna è stata persa o profondamente lesa, quindi non ci consente di avere quel coraggio di proporci nei rapporti in maniera spontanea o con la, lasciandoci la possibilità di essere sorpresi dagli altri. se affrontiamo queste tappe dello svezzamento con questa problematica per cui di separazione dalla madre, per cui se perdiamo il rapporto fisico con la madre perdiamo tutto perché non abbiamo avuto il nutrimento psichico da questa donna, poi cosa succede? Che la separazione è presso l'impossibile, è una disperazione, una lacerazione interna, si casca proprio nel vuoto, il vuoto vuol dire sensazione di disintegrazione dell'io. E allora i bambini a volte cosa fanno? Si aggrappano agli oggetti materiali che si portano da casa, il ciuccio, oppure si possono aggrappare al corpo. Ora voi siete, alcuni di voi fanno proprio la facoltà di scienze della formazione e vi capiterà di vedere agli asili nido una pratica che fanno i bambini quando sono molto angosciati, soprattutto nel momento della nanna, che è la masturbazione infantile. La masturbazione, che non è sessualità, intendiamoci, è la ricerca di un piacere fisico nel corpo che deve contrastare un'ansia assolutamente insostenibile. Ora, questo è praticamente la base un po' di tutte le condotte di addiction, di tutte le dipendenze patologiche che osserviamo poi dall'adolescenza fino all'età adulta. Cioè, nell'impossibilità di essere noi stessi, nell'impossibilità di esprimere un'identità personale, perché si è persa, resta solo il corpo come possibilità di sentirsi ancora a contatto con gli altri e come possibilità di sentirci, di avere un minimo di contatto con noi stessi, diciamo così. Quindi questo, partendo da questo assunto, cosa possiamo ritrovare? Tutte le pratiche autolesionistiche, va bene, che sono pratiche finalizzate a sono attacchi al corpo, non sono atti finalizzati al suicidio, anche se comunque il tasso, diciamo, rischio di suicidio in adolescenti autolesionisti è molto alto, è del 70%. Però diciamo che questi atti contro il corpo, che sono tagli, bruciature, hanno la finalità proprio di regolare la tensione interna, di sedarla. Ci sono adolescenti che fanno questi tagli proprio perché non sostengono la frustrazione, no? Di non riuscire ad esprimersi per come vorrebbero nei rapporti con gli altri, oppure la frustrazione di non riuscire a fare un rifiuto all'interno dei rapporti familiari, cioè a esprimere la propria identità personale nei rapporti familiari. Quindi tendono a tagliarsi per sentirsi minimamente validi, perché queste pratiche sono assolutamente dei rituali, sono delle condotte molto controllate in verità. Decido io quando mi taglio, decido il momento, decido lo strumento con cui farlo. E sono quindi tutte condotte ansiolitiche, che poi, verso le quali si instaura una dipendenza, perché da questo fatto di tagliarsi si trae un minimo di benessere dal dolore psichico inaffrontabile. E quindi si tende a ripeterlo. E quindi si tende a diventare dipendenti da questa condotta autolesionistica che ci protegge dall'angoscia, di una depressione probabilmente che non si può comunicare, perché magari si vive in contesti familiari, in primis, in contesti familiari che non consentono l'espressione di un conflitto oppure di un malessere. Generalmente le famiglie che troviamo dietro pazienti anoressiche, pazienti di disturbi del comportamento alimentare, pazienti autolesionistici, sono famiglie tutte improntate al successo o al successo professionale, all'accumulo di beni materiali, quindi improntate al fare e al possedere piuttosto che all'essere, ok? Cioè, questo è anche il motivo per cui questi disturbi si ritrovano nella società attuale, perché la nostra società sta andando sempre più verso una individualizzazione, una negazione sempre di questa identità personale per spostare tutto su ciò che possediamo, va bene? Cioè noi non ci proponiamo per ciò che siamo, ma per ciò che possediamo, quindi sono i simboli della nostra identità. gli oggetti materiali. Abbiamo detto che l'oggetto materiale comincia ad avere importanza proprio quando c'è un vuoto interno, degli affetti, non c'è più l'interesse degli altri, un interesse vero. Quindi in contesti familiari in cui i genitori non vedono la realtà psichica dei loro figli, succede che questi figli, non sentendosi riconosciuti nelle loro esigenze, cominciano a rinchiudersi progressivamente in se stessi perché perdono la fiducia nella possibilità di essere compresi e visti e quindi si nascondono e si attaccano il corpo. Perché in adolescenza succede tutto questo? Perché il corpo in adolescenza prende il sopravvento, comincia a svilupparsi, in pubertà diciamo, in adolescenza, comincia a svilupparsi e ad assumere le forme femminili o maschili, però sono condotte che ritroviamo prevalentemente nelle donne. Perché? Perché il corpo, soprattutto nelle donne, troviamo queste condotte che vanno ad attaccare il corpo? Qui rientra il discorso culturale che ci accennava prima Francesca, perché al corpo innanzitutto è associata alla sessualità. Cioè, nella pubertà, adolescenza, tutti questi cambiamenti corporei portano con sé vari significati. Il primo, la comparsa della sessualità, che nell'età infantile non c'era. Ma per viversi bene la sessualità bisogna realizzare una separazione dalla madre, bisogna sentirsi autonomi nella gestione di questo corpo e anche nella gestione dei propri rapporti. Quindi, ecco che il momento dell'adolescenza è un momento delicatissimo, cioè di scoperta di tante cose nuove. Il corpo intanto cambia, che è completamente diverso da prima, e poi il modo di rapportarsi anche agli altri. Questo corpo che cambia avrà un impatto sugli altri. Le forme femminili e l'immagine maschile, la barba, la voce che cambia, cambia tutto. Di fronte a questo cambiamento improvviso bisogna che la mente si rifonda con questo corpo, ma se questa mente è stata lesa in profondità non riesce a farlo, quindi il corpo lo attacca. Succede che quando non si riescono ad affrontare i conflitti all'interno dei rapporti familiari oppure non si riescono ad affrontare queste situazioni nuove, si diventa il corpo l'oggetto di confronto, mi verrebbe da dirvi, perché viene così trattato poi il corpo come un oggetto, come un altro di sé. Anziché affrontare il rapporto interumano, si affronta il rapporto col corpo come se il corpo fosse qualcuno che noi possiamo controllare bene. Di fronte all'impossibilità di controllare i continui cambiamenti che si propongono all'esterno e noi stessi, possiamo tentare di controllare il corpo, ci appartiene, quindi lo controlliamo. E quindi ecco che il corpo diventa espressione, può diventare l'espressione di quel rapporto che non riusciamo ad affrontare, in primis il rapporto con la madre. Quella madre che non riusciamo ad allontanare da noi può essere espressa dal nostro rapporto col corpo. Il corpo diventa il nemico, il corpo diventa l'espressione di quel rapporto che non riusciamo ad affrontare. E allora ecco i disturbi anche del comportamento alimentare. Il controllo del corpo, del peso corporeo, fa sentire queste ragazze molto più capaci, molto più coraggiose, quando coraggio e capacità non se ne sentono di avere nella vita. Quindi anche diciamo la condotta anoressica serve proprio come difesa da questa sensazione di inadeguatezza perenne che queste ragazze hanno. Ora, si diceva, facendo un passo indietro, sempre andando a vedere meglio il rapporto con la madre, c'è un caso che forse avete visto nelle cronache qualche anno fa, che era quello di Isabel Caro, che è stata la testimonia di Oliviero Toscani per la campagna contro l'anoressia. La sua storia era molto struggente. C'è scritto un libro sulla sua storia, un'autobiografia. Lei è morta a 28 anni. E nonostante gridasse al mondo la sua disperazione, non è guarita dall'anoressia, è morta. Qual era la sua storia? Aveva una madre che si separò dal marito quando lei aveva 4 anni e praticamente ha sostituito il rapporto col marito con la figlia, cioè la figlia ha preso il posto dell'uomo assente. E quindi il fallimento della madre nel rapporto uomo-donna è diventato fusione simbiotica con la figlia, cioè la figlia è diventata depositaria di tutti quei significati che invece questa donna doveva ricercare nel rapporto uomo-donna, ha spostato tutti sulla bambina. La bambina a quel punto non poteva più permettersi di crescere, perché nell'accudimento della bambina la madre ritrovava se stessa, cioè trovava in questo ruolo di madre nell'accudire la bambina bisognosa di lei, riusciva a sentirsi evidentemente valida. E quindi cosa ha fatto questa donna? Ha isolato sempre di più questa bambina, impedendole di frequentare la scuola, le impartiva lei le lezioni, le impediva quindi di frequentare, avere rapporti proprio con l'esterno, quindi proprio una fusione simbiotica proprio tipica, questa da manuale. E l'unico modo che questa ragazzina ha avuto per uscire da casa e avere un confronto con una figura medica per esprimere il suo malessere, la situazione folle in cui si trovava, è stata di farsi venire la febbre per andare dal pediatra all'età di 12 anni. Cercare di uscire di casa, cioè era il suo modo per cercare di uscire di casa. E di fronte al pediatra che la pesò, era 39 kg per 1,52 m di altezza, quindi si parla di un indice di massa corporea inferiore a 17, l'indice di massa corporea è quell'indice che ci dice quando il peso è sotto soglia, quindi si parla di anoressia. Di fronte a questo peso vide una smorfia sul volto della madre, lei la interpretò come se non fosse una cosa buona, c'era qualcosa di troppo che non andava bene, quindi lei cominciò la dieta e fece anche il pensiero, proprio lo fece, l'ha scritto, che se lei cresceva avrebbe perso l'affettività della madre, il rapporto si sarebbe rotto, non si sarebbe più sentita accettata da lei in questo rapporto di fusione, no? Per cui doveva compiacerla in tutto per poter essere sicura di essere amata dalla madre. Ma chiaramente, per come abbiamo detto all'inizio, per come abbiamo parlato dell'amore all'inizio, non c'era amore da parte della madre, tutt'altro che amore. La possiamo chiamare anaffettività, quella dimensione di cecità assoluta, essere per l'annullamento dell'altro praticamente. Questa donna si sentiva capace nella misura in cui annullava la figlia, le doveva togliere ogni vitalità, ogni fantasia, tutte quelle caratteristiche che la madre stessa aveva perso, quindi non poteva tollerare di vederle nella figlia. E quindi che è successo? Che lei è cominciato a dimagrire progressivamente e poi, pensiamo un attimo, questa magrezza diventa come un grido disperato, no? del proprio malessere, è l'unica traccia di quel malessere interno che non è stato possibile esprimere in altro modo. Allo stesso tempo, quindi, è una richiesta di essere vista, no? Anche dalle persone, dagli sconosciuti, perché un corpo emaciato è visibilissimo, però è una visibilità che acceca, cioè come se allo stesso tempo fosse un corpo che impedisce la visione della profondità, della realtà più profonda. Cioè come se quel corpo fosse un vetro, una lastra di vetro che impedisce di sentire l'altro. Quindi c'è questa ambivalenza, cioè mi mostro nella mia tragicità, ma è come se anche non volessi essere toccata. E quindi poi è morta. Cioè anche il fatto stesso poi di esibirla probabilmente in questi cartelloni pubblicitari, di farla partecipare alle trasmissioni televisive, hanno potenziato quel narcisismo che poi lei stessa ha sviluppato, perché questa la madre narcisista ha reso la figlia narcisista, cioè questa fusione simbiotica c'è stata, si è realizzato questo narcisismo che ha una dimensione di chiusura assoluta, quindi si ricerca solo l'altro per sentirsi visibile, ma non si va oltre quello, cioè il vuoto totale di una possibilità di rapporto, e quindi poi è morta. Cioè questa è la tragicità della storia di Isabel Caro, che appunto aveva gridato al mondo la sua malattia, ma nessuno l'ha salvata. Dopo poco la madre si è suicidata. Dopo la morte della figlia. Quindi storie veramente, veramente terribili. Quindi diciamo che ora non so se voi volete che vi spieghi meglio le forme di anoressia, non so se le conoscete più o meno, oppure volete che vi dica un po' nel dettaglio come si può presentare questa malattia. Allora, le due forme diciamo più frequenti di disturbi del comportamento alimentare sono l'anoressia e la bulimia. Poi c'è in aumento anche il binge eating disorder, che è un disturbo dell'alimentazione incontrollata. E poi ci sono tutte le forme subcliniche di anoressia e bulimia, che sono quelle appunto non manifeste e che sono anche quelle più pericolose, perché in quanto non manifeste tendono a cronicizzarsi. E quindi, insomma, ecco, queste in realtà sono quelle le forme anche più diffuse e quindi sono anche più pericolose per questo motivo, perché sono sotto soglia. Allora, diciamo che l'anoressia è in due forme, cioè l'anoressia restrittiva e l'anoressia binge-purging, cioè quella con le crisi bulimiche. Quella che mima la bulimia, però, è associata alla condotta di eliminazione che è tesa a ridurre sempre il peso corporeo. Quindi la finalità nell'anoressia è tenere sempre il peso sotto, il più sotto possibile, come per realizzare un'idea di perfezione, un ideale di perfezione praticamente inesistente e irraggiungibile. Per questo non si ferma mai nella ricerca spasmodica di questo ideale di perfezione che è praticamente impraticabile nel corpo, perché il corpo a un certo punto si ribella, cioè comincia a dare dei segnali di scompenso, non riesce a seguire la follia della mente, per cui cominciano ad esserci delle problematiche anche grosse di osteoporosi, bradicardia, ipotensione arteriosa, che possono anche dare dei collassi. Cioè, molto spesso l'anoressica si manifesta con il collasso, insomma, con crisi ipotimiche, di abbassamento della pressione e sgomento. Succede spesso a scuola e sono, quando succede possiamo anche intervenire, diciamo, come possono intervenire gli insegnanti, possono intervenire figure anche psicoterapeuti che lavorano nelle scuole. Allora, e poi abbiamo detto c'è questa forma appunto restrittiva in cui c'è il rigido calcolo delle calorie, c'è la proprio non voler ingerire niente, quindi c'è l'iperattività fisica. Ci sono anche c'è un ipercoinvolgimento nell'attività mentale, quindi sono generalmente ragazze molto brave a scuola, con successi scolastici esorbitanti, sono le prime della classe, e anche questo rientra in una loro ricerca di conferma sempre nel rapporto con gli altri. Loro si sentono trasparenti e cercano in ogni modo, nel loro modo di affrontare la vita, di rendersi visibili, di imporsi agli altri, e quindi rendendosi però superiori, devono essere le prime su tutto, quindi in ogni cosa che fanno, va bene? Non riescono a vivere il rapporto alla pari, devono essere sopra, in maniera tale poi da non essere, chiaramente, da non sentirsi mettere in discussione dagli altri. E poi abbiamo detto, invece la forma invece delle crisi bulimiche è quella poi più frequente, perché la fase restrittiva si riesce a reggere per poco tempo, sopraggiunge immediatamente la buffata, cioè il discontrollo, il momento in cui queste ragazze non riescono a portare avanti questa restrizione. Il cibo fondamentalmente è molto bramato. Cioè non è vero, il termine anoressia non ci dice la verità su questa malattia, non è una mancanza d'appetito. L'appetito ce l'hanno e come, la fame ce l'hanno e come. È il fatto di controllare la fame che li rende invincibili. Di controllare qualcosa che per loro è più importante di tutto il resto. Abbiamo detto che avendo perso l'immagine interna, tutto si sposta sul corpo, tutto si sposta sulla realtà materiale. Il cibo diventa, rappresenta la fonte del piacere. Quindi il piacere che non si riesce a trovare, a realizzare nel rapporto interumano, in particolare nell'adolescenza, nel discorso della sessualità che abbiamo detto prima, praticamente viene spostato e sostituito dal cibo. È il cibo la fonte di piacere. Nell'evitare il cibo si sentono importanti, si sentono capaci, eroiche. però poi si stanno distruggendo, si distruggono, è questo. Quindi è un'autoterapia, e in quanto autoterapia che deve proteggerle dalla depressione, dalla sensazione di fallimento, innesca la dipendenza da questo comportamento. Non riescono più a farne a meno. Quindi, anche perché poi il fatto di vedere l'ago della bilancia scendere gli dà una sensazione proprio di euforia. Di conseguenza non mollano. Quella è il loro modo di salvarsi, anche se vogliamo, da una deriva psicotica. Perché si sentono totalmente inadeguate. Alla base di questa patologia c'è una depressione con tratti dissociativi importanti, c'è cioè una dissociazione, abbiamo detto, tra mente e corpo, ma anche a livello del pensiero, perché poi questo corpo viene visto deformato, c'è un delirio sul corpo, cioè si chiama depersonalizzazione questo sintomo, cioè si vedono allo specchio e si vedono grasse quando invece il corpo è emaciato. Quindi, come per salvarsi da un fallimento totale nel rapporto, ho detto deriva psicotica per dire per salvarsi da una frattura col mondo che può diventare delirio paranoico, quello che possono rischiare questi pazienti, si proteggono da questa deriva proprio controllando questo corpo. Abbiamo detto che è l'unico aggancio, no? Per sentirsi ancora integre. Però allo stesso tempo questa emaciazione porta proprio anche a delle conseguenze del pensiero, cioè c'è un progressivo impoverimento ideoaffettivo di queste ragazze. Quindi da un iniziale vantaggio che ricavano da questo comportamento, che è la capacità di socializzare con gli altri, la capacità di raggiungere dei bei risultati, quindi gratificando anche le aspettative dei genitori, abbiamo detto famiglia improntata al successo e quindi che si aspettano grandi cose da queste ragazze, non vedendo le effettive possibilità umane, queste ragazze tendono a mettersi questa maschera, ma che è molto faticoso conservare. E quindi, diciamo, dopo una prima fase di apparente benessere, comincia l'impoverimento ideoaffettivo, perché piano piano, instaurando questa dipendenza dalla condotta di evitamento, tutta la loro vita viene vissuta intorno a, viene organizzata intorno all'evitamento del cibo. Quindi progressivamente perdono gli interessi, progressivamente perdono la capacità di rapportarsi agli altri e si isolano sempre di più, sia nella forma dell'anoressia restrittiva, sia nella forma con le crisi bulimiche, in cui c'è la buffata seguita dalle condotte di eliminazione, che sono abusi rilassativi, attività fisica frenetica, vomito autoindotto, e arrivano a vivere tutta la giornata finalizzata al momento della buffata e alla condotta di eliminazione. Vi leggo un passaggio di un libro di una ragazza anoressica che dice, esprime tutto in poche righe. Praticamente Alessandra Ratti, che ha scritto questo libro, si chiama Briciole, e dice: il cibo che mi veniva sbattuto nel piatto era magicamente diventato la fonte di tutti i miei problemi. Rigettandolo li avrei risolti. E non mi importava delle forze che mi abbandonavano, perché c'erano i nervi a sorreggere le gambe e a stimolare il cervello, che rimaneva lucido per uno studio sempre più frenetico ed ossessivo. Non avevo bisogno di altro, me ne convincevo cominciando a guardare il mondo dall'alto in basso. Esprime chiaramente tutto quello che abbiamo detto finora, ecco lì che è stata più brava di me, dicendo proprio di questo vivere poi rapporti improntati con questa caratteristica del narcisismo: vivo al di sopra degli altri e così divento inattaccabile e intoccabile, nessuno mi può scalfire, nessuno mi può mettere in crisi. Quindi immaginate quanto sia difficile curare queste ragazze poi, no? Che ci vengono portate in cura e terapia soltanto nel caso estremo, cioè quando i genitori sono disperati e cominciano ad accorgersi di questa cosa. Tra l'altro, ecco, una cosa importante da specificare ancora di più, è che questa malattia si manifesta, proprio questa malattia, in certe famiglie, proprio perché è l'unica modalità di espressione del disagio psichico. Quindi, cosa pensano loro? Se i miei genitori non vedono altro che la realtà fisica, io vi faccio vedere che se non c'ho il cibo in realtà materiale, magari si accorgono di qualcosa, piano piano dimagrisco. se diventa visibile il mio malessere, forse questi si accorgono che sono male. Allo stesso tempo poi chiaramente non vogliono essere curate perché non riescono a mollare questa condotta difensiva che li fa sentire, che le protegge, va bene? Quindi è difficilissimo prima di tutto mandarle in terapia. I genitori cominciano ad accorgersi del problema quando questo problema è già consolidato, generalmente. E poi ci imbattiamo anche nell'ambivalenza dei genitori che ce le mandano in terapia, soprattutto delle madri. Cioè, la cosa drammatica spesso che riscontriamo è che ce le mandano in terapia e sembrano assolutamente intenzionate ad aiutare le figlie, ma nel momento in cui cominciamo a dire non è un problema del corpo, è un problema della mente, si spaventano, non l'accettano. E molto spesso anche le madri sono molto simili, hanno una struttura di personalità simile alle figlie, e non è infrequente vedere delle madri che sono delle anoressiche croniche praticamente. Oppure madri schizzoidi, che non hanno la forma dell'anoressia, però hanno tutta una rigidità di vita impostata tutto a controllo praticamente, no? Il controllo razionale delle cose, delle situazioni, è la difesa più immediata quando il mondo interno si sente in frantumi. Ci si aggrappa alla razionalità e al controllo. Va bene? Quindi si osserva molto spesso questo atteggiamento ambivalente da parte dei genitori stessi. Da una parte mandano in terapia la figlia, dall'altra si oppongono alla terapia. Nel momento in cui cominciamo a problematizzare anche i rapporti familiari, a dire che all'interno di quei rapporti c'è qualcosa che non va e non vogliono assolutamente affrontare, la maggior parte dei casi non li vogliono affrontare. Quindi, e da parte della ragazza cosa succede? Perché la ragazza praticamente nella maggior parte dei casi viene costretta dalla madre, insomma dai familiari generalmente. Dall'altra potrebbe anche richiedere lei spontaneamente una psicoterapia, però fondamentalmente è molto difficile, anche quando arrivano, scardinare questa difesa, questa corazza difensiva. Tendono a riproporre anche nel rapporto psicoterapeutico la stessa idealizzazione che poi era scattata con la madre. E quindi poi, se l'altro viene idealizzato, rimane il vuoto da un'altra parte. La ragazza idealizza il terapeuta viene messo su un piedistallo e lei non c'è nessuno. Allora si rinforza di nuovo ancora di più il sintomo anoressico. Quindi bisogna stare molto attenti a questa dinamica qua. Passaggio, cercare di scardinare questa corazza di schizoidia per arrivare a far emergere la depressione, che è la base da cui è partito tutto, cioè sentirsi inadeguati, sentirsi la svalutazione di sé, è un processo veramente delicato. E poi, quando gli anoressici diventano madri, si vede chiaramente poi il discorso che vi dicevo prima dell'allattamento materiale. Cioè, quando, avendo loro perso completamente un'immagine ulteriore, quando diventano madri, e a volte ricercano la gravidanza, anche se è veramente difficile che rimangano incinte, perché in genere rimangono incinte solo in quelle fasi in cui c'è un compenso organico che consente che siano fertili, ma è molto raro questa eventualità. Però il fatto stesso di rimanere incinte gli dà una parvenza di avere un contenuto, no? E questo è il delirio. Mi sento, no? Cioè, c'è uno sviluppo del feto dentro di loro e loro lo immaginano come fosse un contenuto loro. Quindi al momento in cui il bambino poi nasce, prima di tutto non viene riconosciuto come altro da sé, cioè viene riconosciuto come un'estensione di se stessa. E poi loro, cioè, cascano proprio in questo fatto che loro possono solo dare un accudimento materiale, loro si sentono talmente vuote internamente, possono dare solo quello, cioè, e allora non mollano facilmente l'allattamento del bambino, non lo mollano perché si sentono capaci in quello, cioè nel dare qualcosa, ma solo come latte fisico, e quindi impediscono molto spesso la crescita del bambino, cioè il fatto che si svezzi da loro, non accettano proprio il passaggio alle pappe, l'autonomia, e quindi insomma si ripropone un po' quella cosa che avevo detto prima. Avevo seguito per poco tempo una donna anoressica, un'anoressica ormai molto cronicizzata, che ha tentato di fare vari percorsi di terapia, tutti falliti, è venuta al mento con una serie di fallimenti e anch'io sono fallita perché il rapporto si è rotto, perché nel momento momento in cui cercavo di riportarla a un discorso interno di affetti, di sensibilità, era assolutamente difficile, non voleva essere messa in discussione su questo piano, quindi ha rotto il rapporto con me. Dopo poco ho saputo che ha avuto altre due gravidanze. Aveva già un bambino quando è venuto da me, dopo la rottura del rapporto ha avuto altre due gravidanze, una dietro l'altra, insomma. E questo mi ha fatto venire in mente questo pensiero, che lei con la gravidanza avesse l'illusione di ritrovare un contenuto, però un contenuto biologico, e poi non era suo, cioè il feto è comunque un altro da sé, cioè in ogni caso. Quindi era un delirio che lei rinforzava in questo modo, spostava tutto sulla realtà biologica e materiale. Quindi insomma, che dirvi ancora? Guardo su, magari c'è qualcosa che posso dirvi ancora. Facciamo una domanda. Sì, buonasera. Ah, dimmi. Buonasera, sono Chiara, sono la studentessa di psicologia. E adesso volevo chiederle, ma come si fa a creare un ponte tra la mente e il corpo? Cioè, quando queste ragazze arrivano e c'è un corpo che non vuole sentire, non vuole sentire di non essere vista, di non essere riconosciuta, ma alla fine voi, dottoresse, come fate a creare un ponte? E poi voglio fare anche un'altra domanda, voglio sapere il ruolo del padre. Sì, bravo. Cioè, bravo. In cui è mio padre che non mi vede. Sì. Questa cosa, collegandosi alla violenza di oggi, insomma, sì, cioè, parla proprio del rapporto uomo-donna, sì. Può agganciarsi, cioè sì. Se mio padre non mi vede, questa sì. Cosa poi sì. L'uomo che si mette vicino bravissima. A me, io vivo ogni volta la pallone, bravo. Se non mi manda un messaggio, io sento di non esistere. Bravissima. È molto tenso. Sì, ma soprattutto qual è la soluzione? Sì, ora te la dico, se quella che posso, cioè quella che penso che sia, ma non lo so, poi non ho la verità assoluta io insomma su queste cose. Quello che può essere la nostra prassi terapeutica e la nostra formazione, che ci dice che partendo dall'inizio, no, abbiamo detto dal corpo, cioè la nascita e la fusione tra corpo e mente. Nella perdita dell'immagine interna vediamo che tutto è spostato sul corpo, quindi noi cosa dobbiamo fare nel lavoro? Spostare tutto dal corpo e chiaramente alla realtà interna. Quindi dobbiamo innanzitutto riconoscere a queste ragazze, come ha detto anche lei, un sentire, va bene? Cioè il fatto che questa condotta, fare riconoscere a queste ragazze che questa condotta è una condotta difensiva da pensieri su se stessa che sono molto negativi e quindi farle capire, vedere che c'è una autosvalutazione enorme di se stessa, quando lei invece è tutta improntata a difendersi da questa cosa e quindi è andata già su un piano narcisistico di dire io sono la più bella, la più brava, Quindi chiaramente riportarla al piano depressivo, però è chiaramente un passaggio delicatissimo perché non lo fanno volentieri, e soprattutto attraverso la nostra umanità, cioè il nostro riportarle sempre al nostro sentire, cioè noi col nostro sentire ci accorgiamo di come stanno loro, le vediamo nella profondità, già questo farebbe risuscitare loro una speranza, no? Nella possibilità di essere viste interiormente. Poi c'è un lavoro che va fatto per recuperare questa immagine interna che non è cosciente, è legata appunto agli affetti, alla fantasia, alle immagini. Quindi noi in particolare poi facciamo tutto un lavoro sui sogni, cioè perché se queste ragazze ricominciano a sognare, o magari non hanno smesso di sognare, quello sarebbe già molto positivo, però se ricominciano a sognare si cominciano a riappropriarsi di questo mondo interno perduto, che era quello non cosciente, fatto di immagini, che era del primo anno di vita, che era poi esitato nel vuoto nel momento dello svezzamento, ok? Quindi facendoli recuperare, facendoli sentire intelligenti e sensibili, avendo sognato, cioè riconsegnando loro attraverso un'interpretazione del sogno il senso di loro stesse, di quello che loro hanno sentito e trasformato grazie al sogno in un'immagine, ritrovano piano piano questo mondo interno di fantasia, di sensibilità, di attività, però è un processo molto lungo e sembra sempre di camminare sul filo, sembra sempre di rischiare la rottura nel rapporto, perché l'idealizzazione la fanno con noi, e quindi nel momento in cui noi andiamo a frustrare qualcosa molto piano e molto delicatamente, la possono vivere come un'aggressione questa cosa, e quindi poi rompere il rapporto e non venire più in terapia. Cioè, dosare bene la frustrazione, che è il far vedere quali sono i piani su cui devono lavorare, quali sono le carenze, e invece l'incoraggiamento, non è facile. Cioè, il nostro scopo è rinforzare questo mondo interno che hanno perso, la fiducia nel loro sentire. Spostando tutto sul corpo, loro hanno dimenticato completamente di avere una sensibilità, di una fantasia, una validità interna. Ho detto appunto che questa malattia poi va avanti in un progressivo impoverimento ideoaffettivo, cioè un appiattimento sempre più progressivo, quindi il lavoro rientra anche nel fatto di far recuperare degli interessi che avevano perso. Io avevo una paziente che suonava benissimo il pianoforte, era una donna brillante, un avvocato brillante, che nel rapporto con un uomo più malato di lei, ma manifestamente più normale, il famoso narcisista over, praticamente in questo rapporto lei si sentiva sempre vuota, sempre quella povera che non aveva contenuti, si sentiva stupida. E però da questo rapporto lei era completamente dipendente, perché prevaleva più il bisogno di rapporto piuttosto che l'esigenza di vedere l'altro nella sua realtà, cioè scegliere l'altro non per quello che proponeva come identità, ma perché c'era solo un bisogno di rapporto, e qualsiasi persona fosse capitata andava bene. Però le persone che queste ragazze in genere intercettano sono uomini appunto narcisisti in genere, che hanno una corazza ancora più dura della loro, almeno loro nel manifestare il sintomo sono umane, questi altri sembrano dei robot. Vabbè. Arrivando al discorso del padre, invece c'è La solitudine dei numeri primi, un esempio che volevo portare, che è un libro di Paolo Giordano su cui poi è stato fatto anche un film. E c'è proprio un passaggio in cui la ragazza anoressica, Alice, una dei due protagonisti, cerca di ha un padre innanzitutto che non la vede, no? E quindi pretende da lei delle cose impossibili, di fronte idealizza appunto la figlia vedendola come non è, cioè non riesce a vedere i suoi limiti, oppure a tenere presenti le sue esigenze, no? Di libera espressione di se stessa, e la porta sempre a fare ciò che vuole lui. E in questo le vuole far affrontare una gara di sci, insomma una pista di sci molto difficile, e lei tentò di fare un rifiuto la mattina al padre per cercare di non andare, per cercare di dire ma io non sono questa, non la voglio fare questa cosa, preferisco stare a casa. Lei tentò di farlo, ma non ci riuscì a farlo veramente. Quindi affrontò questa fase sentendosi completamente inadeguata rispetto alle aspettative del padre, e si rompe una gamba nel fare questo, cioè le viene l'ansia, le viene tutto quel corteo di sintomi che diceva lei, perché quando c'è l'attacco all'identità personale c'è l'ansia, c'è l'attacco di panico, c'è l'angoscia, gli viene appunto affrontando la pista che per lei era inaffrontabile. Però era costretta a farlo per compiacere il padre, che non la vedeva minimamente nella sua realtà. Si rompe una gamba, e se la rompe in maniera tale da rimanere zoppa a vita. E quindi c'è un passaggio nel libro in cui lei vuole farsi un tatuaggio, no? E quindi dice al padre, a tavola, i momenti di incontro chiaramente della famiglia erano ai pasti, come nella maggior parte delle case succede, e c'era la madre depressa, zitta e silenziosa da una parte, e il padre invece narcisista, tutto pieno di sé, dall'altra. La figlia timidamente, Alice, dice appunto vorrei fare un tatuaggio all'ombelico, si voleva tatuare una viola come simbolo dell'amicizia con una ragazza di classe che da prima l'aveva denigrata, la ragazza viola era un po' una bulla rispetto ad Alice, la prendeva sempre in giro, e invece diventano amiche. E allora, come rappresentazione, simbolo di questa amicizia, lei voleva farsi questo tatuaggio, una cosa molto carina peraltro. Il padre ovviamente la svaluta, risponde che questa cosa è, a parte che lui risponde proprio a me, non so neanche di chi tu stia parlando, questa Viola, insomma, non so chi sia, quindi il completo disinteresse rispetto alla vita della figlia, non rendersi proprio conto della sua realtà anche scolastica, dei rapporti sociali con gli altri. Ma poi svaluta proprio questo slancio di fantasia, si potrebbe dire, no? C'è questa cosa creativa, no? Nell'immagine di un linguaggio, di un veicolo che rappresenta, insomma, una cosa affettiva, di fantasia, viene completamente castrata. Tutto questo mentre mangiano a tavola. Allora Alice cosa fa? Non riuscendo più a ribellarsi, perché non c'era verso di fare un confronto, lui la zittisce, mentre lui mangia, Alice comincia a nascondere gli spaghetti nel tovagliolo e poi li butta via. Quindi nel fare questo lei esprime un rifiuto al padre, a un padre appunto che non la vede. Il discorso dei padri è fondamentale, io ho parlato della madre perché il rapporto alla madre è fondamentale per lo sviluppo psicofisico, però è chiaro che c'è anche un padre, perché c'è una dinamica prima di tutto antecedente alla figlia, il rapporto tra uomo e donna, cioè tra i genitori, e poi come poi questi padri vedono le figlie. C'è anche un discorso culturale che non ho approfondito prima, cioè proprio accennato quando l'ho detto, cioè di una cultura che dal positivismo in poi ha sempre negato, ma anche da prima, insomma, comunque, è sempre stata negata questa dimensione irrazionale del sentire, e soprattutto quello della donna e del bambino. Infatti donne e bambini sono sempre stati accomunati in questa svalutazione come esseri umani, in quanto più irrazionali, va bene? E quindi ecco perché questi disturbi si ritrovano di più nelle donne, va bene? E perché appunto la negazione della vitalità della donna è quella che è sempre accaduta nella storia. Cioè, quello che è accaduto nella storia è la negazione del sentire delle donne, della loro fantasia, della loro vitalità da parte di uomini razionali. Cioè, questa è stata la storia, cioè l'identità umana veniva proposta solo come razionale e maschile nel logos occidentale, nella filosofia greca. Poi c'è stato il cristianesimo, e col cristianesimo anche sono emersi dei problemi, perché invece lì nell'irrazionale si vedeva il male, e quindi e soprattutto nel corpo delle donne si vedeva il male. E evidentemente questa immagine legata però anche al corpo della donna turbava la razionalità e turbava, metteva in crisi questa identità come ragione. Bene, allora doveva essere sempre svalutata, relegata al ruolo di esseri subumani, appunto. Il corpo delle donne veniva visto come latrina, come cioè, sono delle cose terribili scritte sul corpo delle donne da parte di Sant'Agostino e altri, insomma, che dicevano che era sicuramente il luogo di perdizione, cioè era la donna, era il corpo della donna, toglieva all'uomo la sua spiritualità, la sua vocazione ad essere un'immagine pura, capito? Quindi ecco anche tutto il vissuto difficile delle donne, delle ragazze adolescenti rispetto alle mestruazioni, cioè allo sviluppo puberale, perché al corpo sono associati dei significati negativi. Diventare donna, avere mestruazioni significa essere sporche nella maggior parte dei casi, va bene? E quindi ecco che l'anoressia si pone anche come purificazione da questo corpo, cioè l'assenza delle mestruazioni, l'anoressia, cioè la menorrea. E il sollievo di queste ragazze nel perdere le mestruazioni è sempre riportato, perché vengono viste come qualcosa di sporco. Quindi rinunciare al corpo significa purificarsi, significa realizzare un'immagine ideale, che però non è quell'immagine interna di cui parlavamo prima, che invece riguarda anche il corpo, è fusione tra mente e corpo. L'immagine dell'anoressia diventa un'immagine piatta, senza contenuto, e praticamente irrealizzabile, perché il corpo, abbiamo detto, non la può seguire in questa follia di cancellarlo. C'erano le sante anoressiche, no? C'erano Santa Caterina da Siena, che avevano questi deliri mistici nei momenti di digiuno e ritrovavano come una pseudo identità, capito, in quella rinuncia del cibo. come se rivendicassero una loro libertà di vivere il rapporto con Dio a modo loro, senza dover sottostare alla volontà degli uomini, ecco, però li vogliamo un po' chiaramente far diventare. Quindi il modo in cui i padri poi affrontano il rapporto con i figli e femmine dipende anche dal discorso culturale. Occorre che questi uomini che diventano padri, anche loro conservino o ritrovino la loro nascita interiore, questo mondo interno di affetti, per poter reggere un confronto, un rapporto con la bambina, che è un'immagine diversa, uguale ma anche diversa da lui. Maschio-femmina, il rapporto maschio-femmina. È più facile il rapporto del genitore col figlio che ha lo stesso sesso, è più difficile il rapporto col figlio di sesso opposto, perché richiede uno slancio affettivo, un interesse molto più profondo, eh? Cioè che è proprio l'interesse per l'altro che lascia l'altro libero di essere se stesso e di esprimersi nella sua diversità, ok? Quindi, tra l'altro, rispetto ai padri, in letteratura, rispetto a questi disturbi del comportamento alimentare, cioè, si parla di problemi di incesto. Molto spesso le bulimiche in particolare hanno rapporti incestuosi col padre nell'infanzia, oppure parlano i psichiatri di atmosfera incestuosa, cioè di padri seduttivi rispetto alle figlie femmine. Quindi non c'è propriamente un'attenzione fisica, neanche un abuso, ma un come dire, farla sentire la principessa, la più bella del mondo, ma in modo un po' possessivo. E quindi anche in questo non vede la realtà della figlia e rischia anche di determinare una competitività pericolosa tra la madre e la figlia. Quindi è una dinamica, sono dinamiche molto complesse e romperle è molto difficile. Però sotto queste dinamiche c'è proprio la cecità rispetto a questo mondo interno che si chiama realtà non cosciente. Insomma, non so se... Altre domande? Insomma, il concetto fondamentale è nell'impossibilità di fare un rifiuto nel rapporto uomo-donna, si attacca il corpo. Questo è un po' il riassunto del mio intervento, del fatto vedere come si realizza nello sviluppo, ma poi parlando di rapporto uomo-donna, le donne che non riescono a realizzare un rifiuto, a vedere il rapporto nella sua profondità e a riconoscere a se stesse il loro sentire, vanno ad attaccare se stesse. Altre domande in generale? Io volevo chiedere una cosa. Abbiamo parlato molto delle ragazze e delle femmine, però sì. Siccome io sono invece un figlio maschio, adolescente, più o meno in età adolescenziale, che per fortuna è abbastanza sano, quindi non mi dà grossi problemi, però mi racconta soprattutto dei suoi amici coetanei di 14-15 anni, che mentre mi ha accennato di femmine che si tagliano, c'è almeno due di amiche che si tagliano, se non tre. E poi vabbè, l'anoressia, che si tagliano. Nei maschi invece devo dire che i racconti che mi porta sono più che altro di questa esigenza di forse narcisistica, di protagonismo eccessivo da parte di molti amici suoi, che poi si trasforma in uso di sbornie, sostanze stupefacenti, atteggiamenti eccessivi in questo. Volevo sapere se questi atteggiamenti qui sono riportabili per quanto riguarda i maschi a situazioni di cui abbiamo parlato invece sul corpo delle femmine, o sono delle situazioni diverse? Se i maschi fanno queste altre cose un po'... Allora, diciamo che la base è sempre la negazione della realtà non cosciente, sempre la negazione di questo mondo interno di affetti, che non consente a questi ragazzi... Ora, ci sono anche degli stereotipi, di cui si parlava prima, no? Culturali, per cui essere maschi significa essere muscolosi, vestiti griffati, rappresentare sempre un'immagine di successo, bene? E di non dare mai l'idea di essere impauriti, di avere delle fragilità, quindi uomini sempre e comunque coraggiosi. Questo soprattutto nell'adolescenza. Sì, no, narcisismo. Del narcisismo. Che questa cosa dello sport. Esatto, è il corrispettivo. Il corrispettivo dell'anoressia nei maschi è il bodybuilding. Cioè è il fatto di spostare sul corpo anche loro questa ricerca di un'identità, avendo perso quella interna, la spostano tutto sul corpo, e quindi la cura del corpo, no? Che viene estetizzato a livelli, sì. E la dipendenza dalle sostanze è lo stesso discorso, cioè si realizza una dipendenza da un comportamento che dà piacere. La ricerca del piacere regola i rapporti nel momento in cui appunto non c'è una capacità di fare dei rapporti più profondi, cioè di realizzare il desiderio, invece è un movimento diverso dal piacere, cioè nella sessualità il movimento del desiderio è un movimento fisico e psichico insieme, invece lì c'è solo ricerca di piacere fisico attraverso la sostanza, neanche attraverso un rapporto. Spesso, oppure se lo spostano sul rapporto c'è la sessualità compulsiva, magari l'ipercoinvolgimento, i rapporti sessuali svariati, sempre per colmare questo, per riempire il vuoto, sono sempre dei riempitivi di questo vuoto interiore, però usando qualcosa di esterno, quindi non realizziamo noi stessi per cercare di riempire il vuoto in un rapporto profondo psicoterapeutico magari. No, si riempie il vuoto con dei palliativi, con dei sostitutivi del seno perduto, no? E quindi anche sostanze stupefacenti, sballarsi per non sentire la frustrazione o la difficoltà di vivere dei rapporti veri. Esco di casa, faccio una serata con gli amici, se mi sento inadeguato e carente nell'identità interna, cercherò di prendere una sostanza che mi faccia sentire capace, coraggioso, e che posso affrontare la serata fino al mattino, e per reggere una serata fino al mattino, andare in discoteca dove c'è quella musica elettronica a bomba, bisogna che mi prenda l'ecstasy, perché se no non riesco a reggere tutto, mi devo sballare, e non c'è altro modo di vivere certe situazioni se non ti sballi. Quindi sono la teoria dello sballo è questa, è questo ottenere proprio quella bolla narcisistica di cui abbiamo parlato, cioè rinforzarla in tutti i modi e non metterla in discussione, e quindi vivere in un delirio poi alla fine, una realtà che non è vera, che non corrisponde. E comunque sono sempre comportamenti che si ritrovano in queste famiglie in cui c'è l'anaffettività, c'è la cecità proprio rispetto alla realtà psichica dei figli, altrimenti non succedono queste cose. Poi arrivano i genitori disperati nel momento in cui comincia la dipendenza dalle sostanze, allora si mettono in discussione i genitori che vengono a cercare una terapia. Quindi vediamo come la dipendenza poi diventi in qualche modo espressione di una maggiore umanità, di una possibilità. Chiaramente però è un comportamento difficilmente intaccabile, perché è un'autoterapia. No, è anche un po' tardivo poi come presa di consapevolezza. Dipende dall'età in cui del ragazzo, insomma, no, se sono adolescenti sono sempre molto affrontabili, insomma, è l'esordio. L'importante è che non si cronicizzi. No, appunto. Ma lì in genere sono affrontabili, però se i genitori vengono in terapia, e anche i figli la devono fare una terapia, perché lì già c'è una condotta che si è stabilizzata, quindi tutti e due dovrebbero, sia i genitori che i figli, dovrebbero funzionare. Sì. A dei genitori, infatti. Infatti le terapie degli adolescenti funzionano se si prende in cura anche i genitori, se no i genitori vanno ad attaccare la terapia del figlio adolescente. Sì. Ok. Perplessità. Io ho una storia familiare di mio parente che ha avuto problemi di anoressia. Era una ragazza molto alta, e quando questa cosa ha cominciato a diventare molto importante, i genitori sono cominciati a chiedere il perché. Quello che però succedeva è che, incontrando magari amici, parenti, a questa ragazza gli veniva proposto: stai benissimo, ok? che cosa succede? Cioè, perché è la negazione totale del problema, quindi vuol dire ammazzarla, diciamo. Sì, ma anche, cioè, gente che gli sta vicino, cioè, stai benissimo. Perché c'è, cioè, il non affrontare, diciamo, l'aver paura della malattia dell'altro, sì. Cioè, non... quasi per paura di un contagio, no? Cioè di essere messi in discussione nella propria realtà personale, no? E quindi tutto deve essere, infatti l'anoressia è una condotta che viene sviluppata per tenere tutto com'è, cioè per tenere tutto uguale, capito? A scapito poi della ragazza, che è l'unica che comunque denuncia questa omertà, questa cecità, questo far finta di niente, questo far finta che il problema non ci sia. E questo che ammazza le ragazze, proprio questo atteggiamento di omertà e di negazione della loro malattia, che purtroppo parte dai genitori molto spesso, perché mente profondamente, cioè riconoscere che il proprio figlio sta male è atroce, cioè fa stare malissimo e chiaramente ti costringe a vederti dentro, ma non è molto per me. E poi c'è anche il problema dell'esterno, no? Che a volte le donne molto male perché stanno male vengono viste invece come un'immagine ideale, cioè proprio il problema culturale, quello che dicevamo, no? E queste donne che in qualche modo diventano marionetta, si identificano in un modello culturale anche se è malato. Un modello culturale malato come quello di fare solamente la madre e la moglie, ma anche quello di rappresentare questa immagine ideale, ma che è la negazione del corpo. Di donna madre. Esatto. Quindi in qualche modo è veramente un problema malato, un pensiero malato, ma a livello culturale, quando si accettano certe immagini antipubbliche, anche tutte le campagne che vengono fatte per la moda, cioè sono molto criticate proprio per questo motivo, presentano un modello culturale che è violento, perché non c'è nessuna identità in queste donne, cioè un aderire a qualcosa che non gli corrisponde, però siccome la cultura vuole questo, questo fanno. C'è proprio questo binomio tra corpo sano e corpo bello adesso che si sta sempre più imponendo nella società, cioè come se il corpo bello corrispondesse al corpo sano e il corpo bello come il corpo magro, ecco, c'è proprio, è proprio uno stereotipo culturale che si è andato sempre più rinforzando proprio per questa progressiva razionalizzazione della società, se vogliamo, questa negazione della possibilità di realizzare se stessi in maniera diversa, più profonda, appunto. Cioè, ci sono questi stereotipi, queste immagini fisse, no? Alle quali dobbiamo corrispondere, sia maschili che femminili. L'uomo che appunto si deve pompare i muscoli, essere maschi significa prevalentemente quello. E avere successo nel lavoro, quindi narcisista, sempre presente, sempre successo. Cioè sono questi modelli che annullano veramente quella che è l'identità, che è principalmente un'identità di affetti, di mettersi in discussione, di sfidare anche delle realtà nuove, più profonde. Questa cultura che lei diceva prima, proprio dell'avere, avere un'immagine esteriore, avere dei soldi e non essere, e non fare continue nascite in cui ogni volta uno mette di nuovo tutto in discussione più in profondità. Che poi è soprattutto quel tenere presente come si nasce, no? Che abbiamo detto che si nasce sani, si nasce uguali, ma soprattutto si nasce sociali, perché il primo pensiero è quello di una certezza di un seno buono, quindi una possibilità di rapporto, cioè quello che ci fa star bene. È questa cosa invece di provarci sempre nei rapporti, provarci in modo diverso e sentire sempre di più l'altro. Questo è quello che ci fa star bene, è proprio l'essere umani. Avere la fantasia, questo di cui ci ha parlato Letizia. Cioè queste violenze di cui ci parlava anche lei si basano un po' sulla negazione della donna, su questo fatto e della sessualità nel rapporto con la donna, anche negazione della realtà nell'uomo, insomma, comunque del pensiero non cosciente. Quindi la prima cosa da restituire a queste donne poi quando vengono in terapia è farle sentire uguali e diverse allo stesso tempo, uguali in quanto esseri umani, quindi restituire loro queste caratteristiche di umanità estremamente valide, allo stesso tempo dire loro che possono distinguersi, perché chiaramente poi anche il corpo condiziona il nostro modo di essere, cioè l'essere maschio, l'essere femmina dipende anche dalla nostra realtà biologica, quindi sono due realtà che non possono scindersi. Ti faccio un esempio che mi colpì quando andai in Africa per qualche tempo. che invece lì a me, che ero molto, cioè ero molto magra quando ero una giovane donna, e che loro non mi dicevano che stavano male, perché per loro lì l'ideale di donna era una donna abbondante e con i fianchi larghi, perché lì c'era la possibilità così di avere dei bambini sani, anche perché le primipare morivano quasi tutte, il 50%. Quindi cambiando cultura, la mentalità non è che cambiasse molto, perché lì era importante fare figli, cioè una donna era una bella immagine se faceva tanti figli e se rimaneva viva dopo il parto, però lo schema corporeo era completamente l'opposto. Quindi ancora una volta non veniva vista neanche lì minimamente la donna con le sue capacità umane, però cambiava completamente quello che si richiedeva alla donna. L'immagine corporea, diciamo, la proposta. Ci sono altre domande? Possiamo chiudere? Ma penso se aspettassimo le domande non mi lasceremmo mai andare via. Cioè, è stato un incontro di un'intensità fortissima. È stato molto bello. È stato molto bello anche per noi e vi ringraziamo veramente tanto anche della partecipazione che c'era, l'attenzione, gli sguardi. Grazie.